La popolazione di Arequipa e dei suoi sobborghi è fra i 30 e i 40.000 abitanti. Un quarto di essi sono bianchi, un quarto neri e meticci, una metà indios. In Perù, come in tutto il Sud America, l'origine europea è considerata un titolo di nobiltà e nel linguaggio degli aristocratici i bianchi sono quelli che non hanno ascendenti neri o indios. Ho visto alcune signore che passavano per bianche pur avendo la pelle color pampepato perché il padre era nato in Andalusia o a Valencia. In questo modo le classi sociali sono formate da tre razze distinte: europei, indios e neri. Fra gli appartenenti a quest'ultima classe, definiti persone di colore, sono compresi i meticci e gli schiavi, qualunque sia la loro razza, resi uguali dalla perdita della libertà. Negli ultimi 4-5 anni gli usi e i costumi del Perù sono molto cambiati. Oggi si sente enormemente l'influenza di Parigi, che solo un gruppo ristretto di famiglie ricche e antiche rifiuta di accettare. I loro membri somigliano a vecchi alberi rinsecchiti che sopravvivono per dimostrare, come le celle dell'Inquisizione, quanto sia progredito il resto della società. Le abitudini delle classi più elevate non sono diverse da quelle europee e gli uomini e le donne vestono allo stesso modo degli europei. Le donne seguono la moda fin nei minimi dettagli, anche se vanno a capo scoperto. Solo quando vanno in chiesa recuperano la severità del costume spagnolo tradizionale, compresa la mantiglia. I balli francesi stanno rimpiazzando il fandango, il bolero e le danze dei nativi, condannate dalla decenza. Nei salotti si cantano le nostre opere e la gente ha cominciato a leggere i romanzi. Fra poco nessuno andrà più a messa se non vi si ascolterà della buona musica. Il tempo libero lo si passa a fumare, a leggere i giornali e a giocare a faraone. Gli uomini si rovinano con il gioco, le donne con l'acquisto di abiti. In genere gli arechipegni hanno un ingegno vivace, una grande facilità di espressione, una buona memoria, un carattere allegro e delle maniere nobili. Prendono la vita come viene e sono nati per gli intrighi. Le donne di Arequipa mi hanno colpita per il loro modo di essere superiori agli uomini. Non sono graziose come le loro sorelle di Lima, hanno modi di vita diversi e un altro carattere, ma il loro atteggiamento orgoglioso e pieno di dignità è straordinario. A prima vista potrebbero sembrare fredde, ma quando le si conosce meglio, i loro sentimenti delicati e la loro mente sottile toccano l'animo. A differenza delle signore di Lima, obbligate dalla passione per gli intrighi e i divertimenti a passare il tempo fuori, esse stanno tranquillamente in casa e si tengono occupate. Confezionano i propri vestiti con una perfezione che sorprenderebbe le nostre sarte francesi. Ballano con grazia e decoro, amano la musica e spesso cantano come delle professioniste. Ne conosco 4-5 le cui voci fresche e melodiose sarebbero ammirate nei salotti parigini. Il clima di Arequipa non è salubre. Il mal di testa, la dissenteria, i disturbi nervosi e soprattutto i raffreddori sono molto comuni. Gli abitanti hanno la fissazione delle malattie, che sono una buona scusa per viaggiare di continuo. La causa della loro voglia di muoversi è la fervida immaginazione unita alla mancanza di istruzione. Solo un cambiamento di ambiente può arricchire la loro mente, dare nuove idee ed emozioni fresche. Le donne in particolare vanno e vengono dai villaggi della costa, Islay, Camana, Arica, dove fanno i bagni di mare, alle sorgenti di acque termali. Alcune delle quali famose per le proprietà curative, si trovano anche nei pressi di Arequipa. Quelle di Ura, le cui acque sono verdi e caldissime, è particolarmente apprezzata. Non vi è nulla di più sporco e scomodo di queste cittadine balneari, dove la buona società va a fare i bagni, eppure sono molto frequentate e la gente spende volentieri un sacco di soldi per stare 3 settimane o un mese in una di esse. Le donne di Arequipa afferrano al volo ogni occasione per viaggiare, non importa se a Cusco o a Lima, in Bolivia o in Cile, e nessuna somma né fatica le scoraggia. Sono incline ad attribuire la preferenza delle giovani donne per gli stranieri al gusto per i viaggi. Sposando uno straniero, esse sperano di realizzare il sogno lungamente accarezzato di visitare il paese dove gli è nato, Francia, Italia o Inghilterra, e questa prospettiva conferisce alle unioni un fascino che forse non avrebbe altrimenti. L'idea di viaggiare rende la lingua francese molto in voga tra le donne e molte la imparano nella speranza di averne un giorno bisogno. Nel frattempo, esse traggono grande piacere dalla lettura di alcuni dei nostri buoni libri e sviluppano la loro intelligenza, compensando così la monotonia della vita che il paese offre. Anche gli uomini istruiti conoscono bene il francese. Il Pantheon, un bel cimitero di recente costruzione, si trova a 2 leghe dalla città e occupa una vasta area sul pendio della collina di fronte al vulcano. Da lontano, l'alto muro bianco e merlato che lo circonda appare malinconico e bizzarro. All'interno, nel suo spessore, sono state ricavate 3 file di nicchie nelle quali sono collocate le bare. L'apertura è chiusa da una pietra sulla quale è appoggiata una lapide di marmo o di bronzo, con incisa a lettere d'oro un'iscrizione che commemora l'illustre maresciallo, il famoso generale, il venerabile parroco. Altri epitaffi più modesti elencano le virtù del morto, perché anche qui, come in tutti i cimiteri del mondo, non vi sono che bravi padri, amate spose e madri affettuose. Le parole dettate dal sentimento del momento esagerano nell'attribuire al morto virtù che non gli erano state riconosciute in vita. I poveri sono sepolti in una fossa comune che viene chiusa anch'essa con una pietra quando si riempie. I protestanti non sono autorizzati a essere sepolti qui. È solo da qualche anno che i morti non vengono più seppelliti nelle chiese e alcuni lo rimpiangono e comprano a caro prezzo un posto in una delle chiese dei conventi. Per questo la tomba di mia nonna si trova a Santo Domingo. In questo paese con i soldi si è facilmente dispensati dagli obblighi della legge e della religione, anche se questi ultimi sono meno cari. Quando ad Arequipa muore una persona ricca, oltre agli eredi gioiscono anche i monaci, che approfittano dell'occasione per vendere ad alto prezzo i loro abiti per avvolgere il corpo. È usanza farsi seppellire in abito monacale, e per questo i buoni frati portano quasi sempre degli abiti nuovi, che contrastano fortemente con il resto dell'abbigliamento. Immediatamente dopo la morte, il corpo, indipendentemente dal sesso, è avvolto in una di queste tuniche ed è posto sul letto di morte per le visite di condoglianze che durano 3 giorni. I parenti più lontani assolvono ai doveri che competono a chi piange una perdita. Stanno nella camera mortuaria a ricevere le persone in visita vestite a lutto, che entrano salutando con la dovuta solennità i parenti seduti su di una predella. Poi si ritirano in un angolo o si mettono a pregare vicino alla salma. Il corpo viene portato in chiesa a spalla e allo stesso modo, dopo la cerimonia, è trasferito fuori dalla città e di lì un carro lo trasporta al cimitero. Non vi sono carrozze ad Arequipa. Un tempo le persone importanti si facevano condurre sulla portantina. A casa di mio zio ce n'è una che era usata dalla nonna e che mio zio utilizza ancora quando non si sente bene. Somiglia a quelle che si usavano in Francia prima della rivoluzione. Tutti si spostano a cavallo o sui muli e usano gli asini per portare carichi in montagna dove gli indios impiegano i lama. Il lama è la bestia da soma della cordigliera e gli indios lo usano per gli scambi commerciali con le vallate. Questo grazioso animale è un interessante oggetto di studio di tutte le bestie che hanno avuto a che fare con l'uomo e la sola che sia stata capace di non umiliarsi. Il lama non permette di essere battuto o maltrattato e si rende utile solo a condizione che gli venga chiesto, non ordinato. I lama si muovono in branchi, preceduti a distanza dagli indios che li guidano. Se si sentono stanchi, si fermano e così fa l'uomo. Se la sosta è prolungata, l'indio, ansioso perché il sole tramonta, decide di implorare gli animali di andare avanti. Si va a mettere a 50 o 60 passi di distanza, adotta un atteggiamento umile, protende le mani verso di essi in un gesto affettuoso e li guarda con tenerezza, mentre, con una pazienza che non mi stanco di ammirare e con la voce più dolce che si possa immaginare, sussurra ic, ic, ic, ic, ic. Se i lama sono disposti a rimettersi in viaggio, seguono mansueti e di buon passo l'indio, coprendo velocemente il percorso grazie alle loro lunghe gambe. Ma se sono di cattivo umore, non girano neanche la testa in direzione della voce che li chiama con affetto e pazienza. Restano immobili, l'uno accanto all'altro, in piedi o sdraiati, e guardano il cielo con tenerezza e tristezza, tanto da far credere che siano coscienti dell'esistenza di un'altra vita migliore di questa. Il lungo collo maestoso, il mantello lucente come seta, I movimenti timidi e flessuosi danno loro un aspetto nobile e delicato che impone rispetto. Per questo i lama sono i soli animali al servizio dell'uomo che egli non osa colpire. Se qualche rara volta un indio arrabbiato cerca di ottenere con la forza quello che il lama non vuole concedere liberamente, l'animale alza il capo con dignità e senza cercare di fuggire, il lama non è mai impastoiato o legato, si sdraia per terra e volge lo sguardo al cielo. Dai suoi begli occhi scorrono grosse lacrime, dal suo petto escono dei sospiri e nello spazio di mezz'ora, al massimo tre quarti d'ora, muore. Fortunate creature che accettano la vita solo a patto che sia serena. I lama sono molto importanti perché sono il solo mezzo di comunicazione con gli indios delle montagne. Tuttavia, si è tentati di credere che la superstiziosa reverenza di cui sono oggetto non sia dovuta solo alla loro utilità. A volte ne ho visti 20 o 30 bloccare una delle strade più trafficate della città. I passanti davano loro una timida occhiata, poi tornavano da dove erano venuti senza protestare. Un giorno un gruppo di una ventina di questi animali è entrato nel nostro cortile e vi è rimasto per 6 ore. L'indio che li guidava era disperato e i nostri schiavi non potevano svolgere il loro lavoro, ma tutti sopportavano il disagio e non si sognavano di lanciare uno sguardo adirato nella loro direzione. Persino i bambini, che non hanno rispetto per nulla, non osano toccare i lama. Quando gli indios hanno bisogno di caricare un lama, due di loro gli si avvicinano, gli passano le mani sul corpo e gli coprono la testa in modo che non veda il carico che gli viene issato sul dorso. Se lo vedesse, l'animale morirebbe all'istante. Gli uomini devono poi compiere gli stessi movimenti per liberare l'animale dal carico. Se questo eccede un certo peso, la bestia si getta a terra e spira immediatamente. Sono animali molto frugali. Una manciata di gran turco basta loro per 3 o 4 giorni, eppure sono molto robusti. Si arrampicano con agilità per le montagne, sopportano il freddo, la neve e ogni sorta di fatiche e vivono a lungo. Un indio mi ha detto di averne posseduto uno che aveva 34 anni. Solo gli indios della cordigliera hanno abbastanza pazienza e dolcezza da riuscire a farli lavorare. Non c'è dubbio che è da questo compagno straordinario che la provvidenza gli ha dato, che l'indigeno peruviano ha imparato a morire quando gli si chiede di fare quello che non è disposto a fare. La forza morale che permette di sottrarsi all'oppressione attraverso la morte, così rara nella nostra specie, è molto comune fra gli indios del Perù, come avrò ancora occasione di dire. I primi giorni dall'arrivo dello zio li abbiamo passati a parlare. Non mi stancavo di ascoltarlo raccontare la storia della nostra famiglia. Deplorava il fatto che gli aveva impedito di fare prima la mia conoscenza e mi parlava con una tale bontà da farmi dimenticare la sua condotta precedente e mi faceva credere di poter contare sul suo senso di giustizia nei miei confronti, ma ahimè, non ho tardato a dover ritornare sul mio giudizio. Un giorno parlavamo di affari di famiglia e lo zio è parso voler conoscere il motivo che mi aveva spinta a venire in Perù. Gli ho detto che in Francia non avevo né genitori né ricchezza, perciò ero venuta a cercare soccorso e protezione dalla nonna, nel cui affetto e senso di giustizia avevo riposto tutte le mie speranze. Ella però era morta quando ero a Valparaiso, in Cile. Lo zio sembrava preoccupato dalla mia risposta e quello che ha detto mi ha lasciata impietrita per lo stupore e la delusione. Florita, ha affermato, quando si tratta di affari io conosco solo la legge e metto da parte ogni altra considerazione. Voi mi domandate giustizia, saranno gli atti che mi avete portato a determinare la misura. Mi avete mostrato un estratto di battesimo dal quale risulta che siete figlia legittima, ma non mi presentate l'atto di matrimonio di vostra madre. L'estratto di stato civile stabilisce che voi siete stata registrata come figlia naturale e questo titolo vi dà diritto a un quinto della successione di vostro padre. Per questo vi ho inviato il conteggio dei beni che egli ha lasciato e che io ero incaricato di amministrare. Avete visto che sono bastati appena a pagare i debiti che egli aveva lasciato in Spagna molto tempo prima che andasse in Francia. Quanto alla successione di nostra madre, voi sapete, Florita, che i figli naturali non hanno alcun diritto sui beni degli ascendenti del padre e della madre. Così io non vi devo nulla fino a quando non produrrete un atto legalmente valido che certifichi il matrimonio fra mio fratello e vostra madre. Lo zio ha parlato su questo tono per più di mezz'ora. La sua voce brusca e l'espressione del volto rivelavano che in quel momento egli era completamente posseduto dalla sua passione dominante. Era l'avaro descritto da Walter Scott. Il padre di Rebecca, che conta una ad una le monete d'oro nella borsa prima di metterle via senza dare nulla a chi gliele ha fatte trovare. Oh, com'è piccolo e avvilito l'uomo quando si lascia tiranneggiare dalle passioni che soffocano i suoi sentimenti naturali. Ero seduta sul sofà nello studio di Don Pio e lui camminava su e giù per la stanza parlando molto, come chi cerca di persuadere se stesso che non sta facendo una cattiva azione. Intuivo cosa stava accadendo dentro di lui e ne avevo pietà. I cattivi sono infelici, bisogna compatirli. I vizi non sono congeniti, sono creati dalle istituzioni sociali e solo le anime elette si sottraggono al loro gioco. Zio, gli ho chiesto, siete convinto che io sia la figlia di vostro fratello? Senza dubbio, Florita, in voi si ritrovano i suoi tratti ed è impossibile dubitarne. Voi credete in Dio, zio. Ogni mattina cantate le sue lodi e praticate con assiduità i riti religiosi. Credete che Dio possa consentire di abbandonare la figlia del fratello, di disconoscerla, di trattarla come un'estranea? Non pensate di infrangere la legge divina, la cui impronta è in tutti noi, rifiutando di restituire alla figlia l'eredità del padre? No, zio. Ne sono convinta, voi non sarete sordo alla voce del cuore, non mentirete alla vostra coscienza, non rinnegherete Dio. Florita, gli uomini hanno fatto delle leggi che sono altrettanto sacre dei precetti di Dio. Io vi devo amare e vi amo, infatti, come figlia di mio fratello, ma poiché la legge non vi conferisce alcun titolo alla sua successione, non vi devo nulla di ciò che egli avrebbe ereditato. Mi spetta solo un quinto di ciò che egli possedeva al momento della morte. Zio, il matrimonio di mio padre e di mia madre è un fatto noto ed è stato sciolto solo dalla morte. Celebrato da un prete, come sapete, non è stato seguito, ne convengo, delle formalità prescritte dalle leggi umane. Sono stata io la prima a dirlo, ma sapreste, in buona fede, farvi forte dell'omissione di queste formalità per appropriarvi del pane dell'orfano? Pensate che mi sarebbero mancati i mezzi per supplire a queste formalità mancanti se avessi avuto motivo di dubitare della vostra giustizia? Credete che mi sarebbe stato difficile ottenere da una chiesa spagnola un atto che regolarizzasse il matrimonio di mia madre? Con questo pezzo di carta in mano, voi avreste tentato invano di rifiutarmi la parte che spettava mio padre. Non avreste potuto privarmi di una lira. Prima della partenza ho consultato diversi avvocati spagnoli e tutti mi hanno consigliato di munirmi di un documento di questo tipo e mi hanno indicato il mezzo per procurarmelo. Ebbene, zio, io ho respinto questi consigli e le mie lettere fanno fede delle mie parole. Li ho respinti perché ho creduto al vostro affetto e volevo attribuire solo alla vostra giustizia l'eredità che mi spetta. Ma Florita, non capisco perché vi ostinate a credermi ingiusto. Sono forse il depositario dei vostri beni? Avete il diritto di esigere una sola piastra? E sia, zio, visto che vi trincerate dietro all'interpretazione letterale della legge, avete ragione e io, come figlia naturale, non ho il diritto alla successione della nonna. Ma come figlia di quel fratello a cui dovete tutto, non avrei diritto alla vostra riconoscenza, zio. È ad essa che faccio appello. Io non chiedo né a voi né agli altri coeredi gli 800.000 franchi che ognuno di voi ha avuto come sua parte. Non vi chiedo che un mezzo quarto di questa somma, appena sufficiente per permettermi di vivere in modo indipendente. I miei bisogni sono limitati, i miei gusti modesti, non amo il mondo e il suo lusso. Con 500 franchi di rendita potrei vivere ovunque, libera e felice. Questo dono, zio, esaudirà i miei voti. E non voglio doverlo che a voi solo. Vi darò la mia benedizione e non mi basterà la vita per esprimere tutta la mia gratitudine. Dicendo queste parole ero andata vicino a lui, ho preso una delle sue mani e l'ho premuta forte sul cuore. La mia voce era rotta dal pianto e lo guardavo con un'espressione ineffabile di tenerezza, di ansietà e di riconoscenza, mentre attendevo, tremante, la risposta che gli sembrava meditare. Caro zio, ho aggiunto, voi consentite, non è vero, a rendermi felice? Ah, che Dio vi accordi una lunga vita. La mia felicità e la mia gratitudine la riempiranno di dolcezza e di calma e vi ripagheranno grandemente di ciò che avrete fatto per me. Lo zio è emerso dal suo silenzio con un movimento brusco. Ma Florita, come potete pensare una cosa simile? Come credete che possa darvi 20.000 piastre? È una somma enorme! 20.000 piastre! Non saprei spiegare l'effetto che ha avuto su di me l'asprezza di questa risposta. Quel che posso dire è che allo stato di eccitazione in cui ero dall'inizio del colloquio, è subentrata un'indignazione così violenta che ho creduto fosse giunta la mia ultima ora. Ho passeggiato per qualche tempo nella stanza senza poter parlare. Dai miei occhi sprizzavano lampi e i muscoli erano tesi. Non avrei neanche sentito cadere il tuono. Non so che cosa stesse dicendo lo zio. Ero in uno di quei momenti in cui l'anima comunica con una potenza sovrumana. Mi sono fermata davanti allo zio e stringendogli forte il braccio e parlando con un tono di voce che non avevo mai usato prima, gli ho detto: Così, Don Pio. Voi respingete a sangue freddo e con premeditazione la figlia di quel fratello che vi ha fatto da padre, al quale voi dovete la vostra educazione, la vostra fortuna e tutto quello che siete? Per tutta riconoscenza, con quello che dovete a mio padre, voi che avete 300.000 franchi di rendita, mi condannate con freddezza a soffrire la miseria, mi abbandonate agli orrori della povertà e della disperazione, mi obbligate a disprezzarvi? Voi che mio padre mi aveva insegnato ad amare, voi il solo parente sul quale riposavano tutte le mie speranze. Ah, uomo senza fede, senza onore, senza umanità, io vi respingo a mia volta. Non sono del vostro sangue e vi consegno ai rimorsi della coscienza. Non voglio più niente da voi. Domani tutta la città sarà a conoscenza della vostra ingratitudine verso la memoria di quel fratello che provoca le vostre lacrime ogni volta che pronunciate il suo nome, della vostra durezza nei miei riguardi e del modo in cui avete tradito la fiducia imprudente che avevo riposto in voi. Sono uscita dal suo studio e sono rientrata nella mia grande stanza dal soffitto a volta. Ero in uno stato di esasperazione e di sofferenza inesprimibili. La notte non sono riuscita a gustare un istante di riposo. La febbre mi faceva ribollire il sangue, mi impediva di stare distesa sul letto e di stare ferma. Andavo e venivo nella camera e sono anche stata costretta a uscire in cortile per respirare l'aria fresca del mattino. Che sofferenza era la mia ultima speranza era distrutta. I membri della famiglia che ero venuta a cercare da così lontano manifestavano tutti le facce dell'egoismo, erano freddi e insensibili alle disgrazie altrui come tante statue di marmo. Mio zio, al cui affetto mi ero abbandonata, il solo che fosse vissuto con mio padre, dal quale era stato amato e della cui fiducia aveva goduto. Si mostrava in tutta l'aridità nuda della sua avarizia e della sua ingratitudine. Proprio lui, che avrebbe dovuto più di altri compatire le mie sofferenze, è stato uno di quei momenti in cui i mali del mio destino si sono disegnati ai miei occhi in tutta la loro crudeltà. Ero nata con tutti i vantaggi che eccitano la cupidigia degli uomini, ma essi mi si erano mostrati solo per farmi sentire l'ingiustizia che mi spogliava del loro godimento. Vedevo dappertutto abissi destinati a me, società umane organizzate contro di me, senza la sicurezza di un po' di simpatia da qualche parte. Oh, padre! Ho gridato involontariamente. Quanto male mi avete fatto! E voi, madre, io vi perdono, ma la serie di mali che avete accumulato sulla mia testa è troppo pesante per le forze di una sola creatura. La Repubblica e i tre presidenti. Mi sarebbe difficile spiegare ai lettori le cause della rivoluzione che scoppiò a Lima nel gennaio 1834 e delle guerre civili che ne seguirono. Non ho mai capito su che cosa i tre pretendenti alla presidenza fondassero i loro diritti davanti ai propri sostenitori. Le spiegazioni che mio zio mi ha dato al riguardo non sono state molto chiare. Quando l'ho chiesto a mio cugino Althaus, egli mi ha risposto sorridendo: Florita, da quando ho l'onore di servire la Repubblica del Perù non ho ancora visto un presidente il cui titolo non fosse contestabile. Ci sono stati anni in cui c'erano ben cinque governanti che dicevano di essere stati regolarmente eletti. In breve, ecco che cosa ho potuto comprendere. Quando la moglie del presidente Gamarra ha visto che non era più possibile mantenere il marito al potere, ha presentato alle elezioni una delle sue creature, Bermudez, che è stato votato. Gli avversari hanno obiettato che la nomina di Bermudez era nulla e hanno nominato a loro volta Orbegoso. A questo punto sono cominciati i problemi. Ricordo che il giorno in cui la notizia è arrivata da Lima, ero a letto malata e stavo parlando con mia cugina Carmen della vanità delle cose umane. Potevano essere le 4. All'improvviso si è precipitato in camera mio cugino Emmanuel con aria spaventata e ha detto: "Sapete che cosa sta succedendo? È appena arrivata per posta la notizia che a Lima è in corso una terribile rivoluzione, un massacro spaventoso." Qui la reazione ha dato origine a una mobilitazione generale spontanea. Tutti gli abitanti si sono radunati sulla piazza della cattedrale. Il generale Nieto è stato nominato comandante del dipartimento. C'è una grande confusione e non si sa che cosa pensare e a chi dar retta. Mio padre mi ha mandato a cercare lo zio Pio. "Ebbene," ha detto mia cugina, senza minimamente scomporsi e scuotendo la cenere dal sigaro, "va a raccontare tutto a Don Pio de Tristan. Questi avvenimenti interessano lui, che può temere di dover dare soldi ai vincitori e ai vinti. A noi cosa importa? Florita è straniera, e io, che non possiedo più neanche un maravedì, non ho bisogno di sapere se ci si sgozza per Orbegoso, Bermudez o Gamarra." Emmanuel è uscito e poco tempo dopo è arrivata mia zia Joachina. "Santa Vergine, sorelle, conoscete la disgrazia che si è abbattuta sul nostro paese? La città è in rivolta. Si è insediato un nuovo governo e quei miserabili che sono a capo dell'insurrezione torchieranno gli sfortunati proprietari. Mio Dio, che calamità!" "Hai ragione," ha detto Carmen. "In circostanze simili si è quasi contenti di non essere possidenti, perché è triste dare i propri soldi per la guerra civile quando li si potrebbe usare per alleviare la miseria della povera gente. Che vuoi? È il rovescio della medaglia." Poco dopo sono arrivati mio zio e Althaus. Erano entrambi preoccupati, mio zio perché temeva di dover cedere loro la sua fortuna, mio cugino perché era indeciso sul partito da scegliere. Tutti e due avevano molta fiducia in me e in quella situazione imbarazzante hanno chiesto il mio parere. Avvicinandosi, mio zio mi ha detto in tono confidenziale: "Florita, sono molto preoccupato. Voi che avete sempre una percezione giusta delle cose, datemi un consiglio. Siete la sola persona con cui possa parlare di questioni gravi. Questo Nieto è un miserabile senza il senso dell'onore, uno scialacquatore, un debole, che si lascerà comandare dall'avvocato Baldivia, uomo capace ma intrigante e rivoluzionario testardo. Questi briganti taglieggeranno tutti noi proprietari, Dio solo sa fino a che punto." Mi è venuta un'idea. Se domani mattina di buon'ora io andassi a offrire 2.000 piastre a quei ladri e a proporgli di fare un prelievo di soldi a tutti gli altri proprietari, non credete che questo darebbe l'impressione che io sono dalla loro parte e mi eviterebbe di essere tassato tanto pesantemente? Cara figliola, che cosa ne pensate? Zio, trovo la vostra idea eccellente, penso solo che la somma che offrite non è abbastanza alta. Ma Florita, mi credete ricco quanto il Papa? Dite che non si accontenterebbero di 10.000 franchi? Caro zio, le loro esigenze saranno proporzionate alle ricchezze disponibili. Se voi, l'uomo più ricco della città, consegnaste solo 10.000 franchi, le loro entrate complessive sarebbero magre. Invece io vi dico che la loro intenzione è di fare un colpo da maestro. E come fate a dirlo? Avete sentito dire qualche cosa? No, non esattamente, ma dispongo di indizi. I miei precedenti rapporti con Baldivia mi avevano permesso di farmi un'idea del personaggio. Sapendo che era nel nuovo governo, potevo facilmente immaginare che i proprietari sarebbero stati spennati. È stato questo a farmi parlare a mio zio con tanta sicurezza. Quando egli è uscito, Althaus si è avvicinato a sua volta e mi ha detto: "Florita, non so che cosa fare. Per quale di questi tre presidenti mascalzoni devo prendere partito?" Cugino, non avete scelta. Dal momento che qui è riconosciuto Orbegoso, dovete schierarvi sotto alle sue bandiere e prendere gli ordini da Nieto. È proprio questo che mi fa arrabbiare. Nieto è un asino, presuntuoso come tutti gli sciocchi, destinato a finire sotto il pollice di quell'avvocatucolo di Baldivia. Mentre dalla parte di Bermudez ci sono alcuni soldati di cui potrei mettermi a fianco. Sì, ma Bermudez è a Cusco e voi siete ad Arequipa. Se voi rifiutate di stare con i signori locali, essi vi destituiranno, vi ricatteranno e vi sottoporranno a ogni tipo di vessazione. Questo è quello che temo. Che cosa pensa Don Pio della durata di questo governo? Non gliel'ho chiesto perché in passato mi ha mentito così tante volte che non credo più a una sola parola di quello che dice. Beh, ma dovete almeno credere a quello che fa. Il fatto che Don Pio consideri questo governo lungo abbastanza da versare dei soldi nelle sue casse, dovrebbe convincervi. Domani egli porterà 4.000 piastre a Nieto. Ha detto così? Sì, caro amico. Oh, questo cambia le cose. Avete ragione, cugina. Quando un uomo politico come Don Pio offre 4.000 piastre a Nieto, un povero soldato come me deve accettare il posto di capo di stato maggiore che gli viene offerto. Domani mattina, prima delle 8, andrò dal generale. Oh, che mestiere disgraziato. Pensare che io, Althaus, sarò costretto a obbedire a un uomo che non avrei accettato neanche come caporale semplice quando ero tenente dell'esercito del Reno. Oh, se riuscissi a farmi pagare da questa banda di ladri almeno la metà di quello che mi devono per il lavoro che ho fatto e che loro sono incapaci di apprezzare, giuro che abbandonerei questo paese maledetto per non farvi mai più ritorno. Una volta preso lo slancio, Althaus si è scagliato contro tutti e tre i presidenti, quello vecchio, Gamarra, quello nuovo, Orbegoso, e quello che deteneva il potere militare, Bermudez. Egli li disprezzava tutti e tre allo stesso modo, ma subito dopo ha visto il lato comico della situazione e ha fatto alcune osservazioni originali e divertenti. Dopo che Althaus se n'era andato, i miei pensieri si sono fatti più seri. Non potevo evitare di sentire pietà per le disgrazie dell'America Latina. In nessuna regione della quale si è ancora insediato un governo stabile in grado di proteggere le persone e le proprietà, e dove accorrono ormai da 20 anni gli uomini violenti di tutti i paesi che vedono l'appropriazione bloccata in Europa dal progresso della ragione e che vengono in America a fomentare gli odi, prendendo partito nelle liti, cooperando a prolungare le resistenze e perpetuando la calamità della guerra. I sudamericani spagnoli non si battono per dei principi, ma per dei capi che li ricompensano con il bottino proveniente dal saccheggio dei loro fratelli. In nessun altro paese la guerra si è mostrata sotto un aspetto così disgustoso e disprezzabile. Essa cesserà di devastare questi paesi disgraziati solo quando non ci sarà più nulla a tentare la loro cupidigia, e questo momento non è lontano. Verrà il giorno, fissato dalla provvidenza, in cui questi popoli saranno uniti sotto il vessillo del lavoro. Quel giorno, ricordando le calamità passate, possano essi esecrare gli uomini di sangue e di rapina e considerare marchi di infamia la croce, le stelle e le decorazioni di ogni genere di cui li fregiano i padroni. Possano essi cacciare quegli uomini da ogni luogo e accogliere la scienza e il talento messi al servizio della felicità degli uomini.